io c'ho tutto sotto antenna, non ce n'è problemi. 3 più 1 e sono 4. Adesso il macchio è attaccato, sto usando il polmar. No, un attimo, proprio un secondo ci metto a svittare e attaccare dietro al montatore d'antenna. Tutto acceso. Eccolo qua. Acceso. Bello, illuminato. Ora lo spengo. Com'è peso? Com'è pesante il DAC? Pesante? Com'è? Ma tu lo sai se mi è successo stamattina? Mi aveva arranco. Allora, stamattina ho detto, sono andato prima a Fusaro, ho comprato i fusibili per un lineare, un B300, l'ho anche provato, bellissimo fare. Aumenta, tu stai facendo le prove, aumenta. Da 9 a 9.15 con picchi positivi ad Alghero. Da Giulio da 9 mi pare a 9.20, boh, una cosa del genere. Aumenta un bel. E l'ho staccato, rimasto tra l'armadio comunque per la cronaca, vabbè. E stamattina so cosa ho fatto. Sono andato a Fusaro, ho preso i fusibili, poi ho preso lo spray per contatti perché mi era rimasta qualcosa da pulire nel DAC. Ho detto, ma adesso me lo smonto, l'ho messo in terra, ma è un bel pesante. Immagina, c'ha 8 viti davanti, 8 sopra, 8 ai lati, a un lato e 8 all'altro, e 4 dietro. Quindi ci ho messo un po' per aprirlo tutto, l'ho aperto, mi metto a pulire, a fare. E tolgo la parte dove c'ha i quarti per pulirli, li pulisco, li rimetto a posto, chiudo tutto, vado a provare la radio, l'ora non è 10, ero nel 9, l'ora mi sposto al 10 ed ero all'11, mi sposto all'11 ed ero all'12, cazzo, ho fatto un casino della Madonna con i quarti. Meno male che ci avevo lo schema che me l'aveva dato Gianni Capri 2 assieme alle valvole, se no un casino era. E cosa hai fatto? Li ho rimessi tutti in linea come c'è scritto, tutti i numeri, ho seguito tutti i numeri e l'ho riportato com'era. Dimmi una cosa, ma quello c'è anche bande laterali o il baracchino? Sì, mi manca solo FM e basta, perché è una radio americana. C'è M, USB, LSB. USB e LSB. No, è troppo bello. Non l'ho mai visto dal vero, io l'ho visto sempre in fotografia, nei video, ed è uno spettacolo con la radio. È enorme, appunto. Non l'hai mai visto? Sì, l'hai visto, sei venuto tu qua. Forse non ce l'avevo collegato, adesso di nuovo al suo posto. Iniziando a rimettere il vintage, adesso devo andare sabato mattina, devo andare vicino a Olbia, a Monti, che devo vedere delle radio vintage, frecce. C'è un Simba, un Comstat 35B e un Persipson 40 canali, che è simile al Royce, quello con la cassa in legno, tutto bellissimo, con due strumenti grandi rotondi, però belli. Vediamo, se sono come dico io li riprendo, se no non si attacca il culo. Ma per Simpson e Simba mi pare ce l'avevi già, te li avevo visti, non sbaglio. Sì, ce l'avevo il Simba, per Simpson, il console, quelli li avevate a Gianni Capri 2, Simba no, il Simba l'avevo venduto a un CB di Furi, l'avevo venduto in continente. Ma gli altri li avevate a Gianni e poi quelli che l'avevano fatto li avevate a te. Sono rientrato, Massimo non c'è. No, penso che sia andato a preparare la cena. Era il telefono marino. Gappa per Roggero, va bene, avanti Fra, lì per avranco, via. Infatti chi chiamava, mi sentite, io li sentivo, invece stavo parlando al canale 9. Ehi, si è andata bene a vedere lo schema, devi stare attento a quelle cose. Però è importante. Ma non le fa niente a Franco però. E qua lo passa. Franco è 9.5 e la portante era più di 9.10. Allora più vicino a te. Non so chi sia, avanti che vuole entrare, ma che qualcuno che non riesce a uscire, avanti chi è? Da un po' di giorni si stanno riaffacciando queste cose, ma vabbè. Sarà il coronavirus che ha pigliato a capo anche uno. Tu immagini che il coronavirus doveva uccidere un bel di persone, ha tutto il resumato, te ne ha resumato coglioni anche. Guarda che stasera stavo parlando con Angelino nel 12 e c'era uno che ci metteva sempre la portata. Sì, c'era la Matteschi, così con i treni. Poi ammazzando di ieri che giocava a vita, invece è Nato Giamato, è Nato Giamato macchi, bu. Non lo so, io so il gusto di stare così con la portante, bu. Non mi passa a me, bu. Vai, ci arriva a 9, cosa ti passa? E qua è 8 e mezzo, quasi 9, ma a Franco passa 9 e 5. Vabbè, vabbè, vabbè. K2, provate lei l'antenna. Cazzo a Pitbull. L'antenna nella furata K2, ma dimmi dove. Ah, io non me la furata. E comunque se non faccio basta dirmela, un pochettino ancora posso aumentare. Ah vai, vai, passi sopra, ce devi aumentare. È il segnale più alto che ho io da fuori. Vabbè, a parte il girino che è 9.10, 9.15. Tu però sei 9.5 abbondante, quindi te va bene. Come il segnale più forte che ti arriva da fuori? Sì, sì, di quelli che muovono tra Porto Torres e dintorni, sì, sì, quello di Franco. Angelino, poi Franco. Poi c'è Eugenio, poi chi c'è? E quelli che non muovono la Sassari, dai. Vabbè, quelli che arrivano da fuori, cosa? Capri sicuramente è quello che arriva più forte. Non pensare, no, Alghero mi arriva più forte di Capri a me. Cosa? Franco mi sta arrivando a 9.5 poi con i picchi positivi. Più o meno il segnale di Eugenio, cioè. Capri, se non era lui che stava provando a entrare, perché Capri certe volte arriva più forte. No, Capri è 9.10, lo passa di poco, lo sento sotto a Franco. 9.10 e Capri qua, capito Angelino, 9 più 15 da Alghero, 9.15 Angelino, poi c'è Capri, poi c'è Franco, e poi c'è Eugenio per 9. Stasera c'era, quando non sono entrato, però c'avevo la radio accesa 5 minuti, quello, come si chiama, Luciano, che era con Forama, arrivava a 9 più 30, e lui era giù, quando era prima di arrivare alla 131, nelle gallerie, arrivava fortissimo, vabbè, quei segnali lì arrivano forti. Allora, a Luciano Catramina io l'ho agganciato nella piana di Muros, come si chiama, lì a Campomela, e arrivava già a 9 più 30, fate il conto. Quando è uscito alle gallerie segnale uguale al tuo. Sì, sì, no, arrivava anche, perché l'altro lo sentivano basso, ho detto no, qua sta arrivando, non sono entrato perché sto facendo altre cose, però arrivava a bomba. Mi ha detto poi sono a Conforama, era 9.30, io sono un bel aperto per Monteoro, proprio io ce l'ho di fronte. Infatti quello, come si chiama, Gianfranco, quello che è a Monteoro, ok, ricordami. Sì, Gianfranco. Poi arriva a bomba lo stesso, proprio una fucilata. Sì, anche qua arriva bene, 9.30 arriva, va bene. Luciano infatti quando ci stiamo ha detto sì, una bomba, mi stava ascoltando lì da dopo Florinas, ero col baracchino, 8 watt, ma stavo arrivando fortissimo. Va bene, siamo aperti comunque, dove sono lì, scusa voi va. E quindi Fra, ti sei caccato? Così, così. Come te lo salvano il baracchino, questo. Io presenti quello, io ci avevo collegato al commutatore della Daiwa 3 HF, ci avevo l'FT950, il 756 e il coso, e come si chiama? No, non ce l'ho più, l'ho cambiato, l'FT1200, nuovo nuovo. Mi sei tutto avverato, tutto, non c'avevo né ricezione né trasmissione. Capito? Né trasmissione né ricezione, niente, YouTube, caput, addio radio, ho iniziato a controllare, a fare, la prima cosa che ho fatto ho staccato il commutatore, ho detto proviamo con l'antenna diretta, ne ho provato una, eccola, atto dusci, ha giubilato l'altra, eccola, eccola, ha giubilato, mi pare, ecco la lampada il giardino, se no si l'ha pigliato il giardiniere. Vabbè, vuol dire che non è attacco, mi un pareggio buono. Sì, sì, sì, guarda, sono quelli della Vectroni che sono molto buoni, cioè la Daiwa li fa buoni, la Daiwa li fa buoni, però ce ne sono migliori di quello. A me mi è andato in corto all'interno proprio, dove commutava, c'era una lenticchietta. Ma andate in corto il passaggio dell'antenna, a Gemma mi brucia tutto. A lui c'è lo strumento, sono salito di stazionare a 1000, boh, non c'avevo più ricezione, ho mollato la portante perché erano 40 metri ed è andata bene. Se continuo, se non sto attento, infatti c'è sempre lo sguardo sotto lo strumento. anche adesso vediamo, uno rapporta uno, proprio manco si muove, è stazionale con l'AT 230 ed è diretto, senza correttore, perché lo puoi mettere diretto oppure con l'accordatore, capito? Vabbè, avanti Lugari, chi è? Differenza rotti, vabbè, dal modulazione al 430 al 440, sempre con i MC 60. Questo che cos'è? Questo è il 430. Questo mi sembra che spinge un pochettino di più. Oh, un po' di più spinge, ma l'avete il 430. C'è la ricezione che c'è, una bomba, anche questa mi fa, c'è un anni ce l'ho, questa l'ho comprata da Walter 7-8 anni fa, mi si è bruciato il frequenzimetro, l'aveva cambiato Fabrizio, mi ha dato una lineatina, nel frattempo mi ha detto stai attento, prima o poi rimani a piedi, ancora è andendi. No, sono vecchie radio, però sono costruite di qualità sicuramente. Dimmi una cosa, Riccardino dice che il microfono se lo mandava a Cagliari dall'altro negozio. Sì, la Fusaro 2, sì. C'è Giovanni a Cagliari, fratello di Vittorio, c'è un negozio uguale a quello, capito? Stamattina ero lì, sì. Già glielo manda, tranquillo. Si è comportata come si doveva comportare, pensavo peggio, va. Certo, deve essere una cosa, cioè se tu lo stai pagando per nuovo, deve dare una cosa, perché c'è un graffiettino, io non sono mai stato pignolo, un segnetto, una scheggiatura, ma chi sa, cioè non so se tu l'hai vista in mano quel microfono, me l'ha fatto vedere il padre, addirittura mancano le viti che fissano i potenziometri, tu li muovi e si muovono tutti. Poi con le saldature, la cosa che a me mi ha fatto più schifo, le saldature sono incollate, neanche saldate. Sì, però vabbè, io a tutto il discorso ci sto, ok? Non voglio riprendere questo discorso, però alla fine do ragione all'intervento di Giulio, perché se lui è andato col padre, il padre doveva controllare, vedere, no, e questo microfono cosa c'ha? Non lo doveva comprare, è inutile che lo compri, ci abbi pazienza. Noi facciamo adesso il discorso di ieri, è andata così, va bene, però quando uno va a comprare una cosa la controlla prima, perché a me mi ha detto stamattina, ma tu hai comprato di questi microfoni Claudio Mazzi, ho detto certo, ed era così, no assolutamente, ma qua c'è la vite, no, vite non ce n'è, le viti sono dalla parte del potenziometro, non sono neanche delle viti, sono dei potenziometri che innestano dalla parte interna, le viti sono interne, questa è una placca di lamierino sottile che è incollata, ok? Quando tu la metti in vetrina, gli ho detto questo microfono è rimasto amici raggiani, questo microfono ha preso sole perché si è scaldata la mirino e si è sollevato, capito, dalla colla, si è staccato, ma non è così, quelli l'ho comprato io, non sono così, gli ho detto Marzia. E vabbè, allora vai, se è così già me lo vendo, faccio lo sconto e me lo vendo, ma che sconto vuoi fare? Di zero, ma bufone, quello col microfono è da dare a metà prezzo, se costa 70 lo devi dare 40, to. Sì, quello che ho detto io, infatti, condivido al 100%. Vediamo un pochettino, Luca c'è ancora? Franco, riprenditi il mic. Ecco, vabbè. Ma strano però che gli sia successo, è qualcosa che ci hanno messo in mezzo, perché anche io l'ho comprato a fine 2018, no 2019, dopo 18, 2019 l'ho preso, a fine, eppure mi ha dato nuovo, ed è buonissimo. Anche a me me li ha dati nuovi, io ho più 4, più 5, quello non mi serve, mi hai capito, l'avrei anche preso, mi ha detto, ma lo dai 40 euro, stamattina mi sono andato a prendere il materiale, lo dai 40 euro, solo che no, non li ho proposto neanche, solo Maria me l'avrebbe dato, capito, e me l'avrei tenuto di scorta, non c'è problema, però sono io che accetto una cosa del genere, non che me la dai tu già così, capito? Perché se io accetto, allora va bene, ma se tu me la dai così e me la fai pagare a prezzo pieno non va bene. No, va bene, no, ma a prezzo pieno. No, hai detto adesso. Come io, quando l'ho comprato, non è che ho preso la cattola e me ne sono guardato. La diabetta, la cattola, la saedi, la ci controllato. E quindi se me la ci butto con la rete, me la ci barato e me ne sono andato. Così si fa, certo si fa così. Io ho le MV più 4 che mi avevi dato tu in scatola, te lo ricordi, fiammante, lucido, poche volte l'ho usato, nuovo, ogni tanto lo metto sull'apparecchio, sul base, lo faccio andare, però è nuovo, stiamo uscendo dalla mia... Ma ti faccio le foto dei miei, io ce li ho 2 anni, il più 4 e il più 5, anche adesso ne ho 2 di più 5, uno di Massimiliano, che è... Fabrizio, cavetto originale Kenwood, alimentato Kenwood, missione MC60, però è ZG, ok, è nuovo nuovo, anche quello. Ma i miei sono nuovi nuovi, ce li ho 2 anni. E i microfoni devono essere buoni, cioè ho le MC50 io, che sto uscendo la vetrina, nuovo, nuovo, nuovo. I 60 che ho io sono nuovi nuovi, l'SM20, tutti i microfoni, MC80, c'è la vista Massimiliano che devo andare a provare. E i miei microfoni sono nuovi nuovi. Li pulisco sempre, ogni tanto la retina con l'alcol, capito, li pulisco bene, sono tenute bene le cose, perché altrimenti vai a vendere, vendi mondetta, non te ne compare già nessuno. Sì, sono d'accordo, io anche io, c'ho anche io le MBPC, però ho una quindicina di microfoni, c'è allora uno, ma con esabio un Tanner, te l'ho detto, quello tutto strano, boh, sempre da cosa, da tavolo. E più c'ho quello militare che mi hai dato tu, di... poi c'ho un paio di SBE, dei CTE, l'M600, il Tanner normale, un altro SM non so cosa sia, eccetera. E più c'ho una marea di quelli da palmo, avrò una quindicina di uno e di più dell'altro, di quelli manuali forse ne ho 18, 19. Vabbè, anch'io ne avevo una trentina di microfoni da tavolo. Li ho dati tutti a collezionisti, con le radio, capite? Tanto non ne fai niente. Ma sai, l'MBP5 mi era dall'anno scorso fermo, entro l'armadio, sono andato a prenderlo e non usciva. Gli ho dovuto rifare il cavetto di alimentazione, dalla batteria al circuito stampato, come è successo a Franco. Vai fra. Cos'è fra? Via. Poi c'era che io ne avevo un sacco di microfoni, li ho tutti dati. Io sono andato, non so se sono andato a Haiti un paio di anni fa, che fa, c'erano anche quegli amici tuoi radioamatori, come si chiama? Non mi viene il nome, quello che c'ha il laboratorio, da fare la previtoria. C'erano tutti quei gruppi di lì, dalla cosa di Faeda, la casa di Faeda dove c'è quella collezione di radio antiche bellissime, c'era questo qua di Oristano, ne ha portato non meno di 300 microfoni, c'erano di tutti i tipi, di tutte le linee, di coso, come si chiama, della Tanne ne aveva 30 tipi diversi, poi di tutti i modi di microfoni, cioè avrà avuto non meno di 300 microfoni, ho fatto le fotografie, una cosa mai vista. Quello è Fusaro da giù di tu, quello è fatto nel Vittorio. È collezionista di radio antiche, microfoni antichi e vintage, e c'ha, non lo sai quante linee americane di quelle della guerra c'ha, non ne hai idea tu. È fatto il Vittorio, quello giovane. Vittorio Fusaro, quello è Giovanni Fusaro, il fratello di Vittorio Fusaro, quello che ha portato tutta quella roba, ed è Oristano, non è a Cagliari il negozio, ce l'ha Oristano. Ah, lui è di Oristano, lo so. Scusa, non ha negozio a Cagliari, Vittorio, cioè fratello del signor Vittorio, non c'è un negozio Fusaro a Cagliari. Però lui è di Oristano, ti sto dicendo, non è di Cagliari, ha un negozio a Cagliari, ma abita a Oristano. Ho capito, ho capito. No, l'ho conosciuto, stavamo facendo una bella chiacchierata. Anche la collezione di coso, di Faeda, del notaio, bellissime radio, ne aveva bellissime e spettacolari, però gliene mancavano qualcuna di quelle che ho io, perché di radio ne avrò lo stesso una quarantina, di radio parliamo radio quelle riceventi, non parliamo di roba militare, di radio quelle classiche in legno, che c'erano una volta, dagli anni 20, diciamo le prime, vabbè dagli anni 20 non ne ho, diciamo le prime che ho sono del fine anni 20, inizio anni 30, la più antica che ho. Infatti io con Antonio, a me, il mio collega di Antonio me l'ha detto, io sono anche per quello, ho detto ma che radio ci sono, e radio d'epoca, ma non me la fatti nulla a me. Non era fatti nulla di quelle radio lì, Telefunke, Mifar, Philips, Grundig, non era fatti nulla, io volevo vedere radio queste radio antiche, capito, degli anni 70, di quelle che sono passate sotto mano a me, linee Drake, linee Alicraft, linee Collins, cosa ti posso dire, linee GRC, io le ho provate tutte. Il Tentec, il 700, il 400, le ho provate tutte, io ero appassionatissimo prima, poi mi sono rotto le palle perché non li usavo e ogni volta ci dovevo rimettere le valvole, e allora le ho provate tutte, via. Una, scusate, ma fra, il digital, il 101 digital, io non l'ho mai aperto, ma ha detto valvole c'ha qua. No, se sei digital, tu non ci apri lo stesso, è la scheda digitale, usa valvole, è tutto transistorizzato quello. quello è uno dei migliori ricevitori che ha fatto la Sommercamp prima di passare gli Aesio. Ho visto, c'ha una marea, c'ho sempre sotto l'occhio, io lo accendo, però non l'ho mai messo sotto antenna quello lì, bisogna fare delle prove, ma funzionava quello lì? Certo che funzionava, certo, se non l'hai mai fatto andare sarà morto adesso, era tutto revisionato, riallineato. Sì, a parte quello, se tu guardi, c'è scritto, ci sono dei commutatori, c'è scritto VFA, VFB, VHF, attaccato a quello da dietro si attacca un altro pezzo, uguale a quello dove ricevi le HF, le VHF e le UHF. Un altro pezzo, un po' più piccolo di quello della stessa linea. No, è bello, poi c'ha un sacco di variabili, di cose, di funzioni, di tutti i modi di ricezione. Cioè, addirittura c'è la M stretta, la M larga, l'FM, USB, LSB, RTTY, CW, CW stretto. Cioè, è una cosa allucinante. Poi c'ha dei tasti che non ho capito cosa servono, poi ci sono tutte queste funzioni, non lo so. Poi c'ha l'attenuatore. E infatti c'è anche quello del VHF, 6L, 6H, 2L e 2H, l'attenuatore ha da 10 e 20 dB, e poi c'è altre fesserie che non ho capito, questo select CH1, CH2, CH3, CH4, esterno e interno, non ho capito cosa sia. Molto, quello ci manca il pezzo, interno è la radio, esterno è l'altro pezzo, ok, il selettore del commutatore di banda, dei canali, dove puoi ricevere con quello lì, oppure mettere l'altro pezzo che si chiama 102 attaccato. Ma questo fa, così come ce l'ho io, fa solo le HF, da 0 a 3. Esatto, mentre se li metti l'altro pezzo fa VHF, VHF, HF. Poi mi guardo le istruzioni, non ce l'hai tu le istruzioni di questo? Su internet guardo se c'è qualcosa. Istruzioni di quello, cazzo direi tu io le istruzioni vaggio. Vabbè, ma cazzo, vai in mezzo alla roba. A me mi pare provato anche le istruzioni di quello lì, perché io conservo tutto qua. Ho trovato tutti i libricini e tutte le cose, addirittura dell'Intec FM500S, dell'Alan 48, di tutti i portatili che avevo, di tutti i baracchini che ho avuto, di tutto, di tutto. Quindi sicuramente te l'ho dato. Avanti, fra. Rimuni tutto, tu rimuni. Sì, io ho cassetti pieni di roba, non butto niente. Assolutamente, infatti l'altro giorno stavo mettendo un po' a posto per ammazzare il tempo e ho trovato il manuale dell'Alan 48 con lo schema dell'Intec FM500S, del 290R che non ce l'ho più, tutti i baracchini che non c'ho più, che ho dato, quindi sicuramente gli ho dato anche quello. A proposito dell'ICR 7000, tu ce l'hai il manuale, tutto hai. Ma tu ce l'hai in italiano perché? Certo, ho fatto stampare in italiano. No, in italiano lo so dove ce l'ho io. Ce l'ho in inglese, in italiano ce l'ho scaricato sul computer, mi sembra. Però è un rompimento di scatole. Se ce l'hai e non ti serve, me lo dai, mi faccio il fotocopio. L'hai già assemblato, già attaccato, fatto al libro? No, quello che in italiano no, ce l'ho nella memoria del computer, non l'ho fatto al libro. In inglese ce l'ho in coso, a libretto. Va bene, va bene. Sono tanti caffè mi devi, mi. Va bene, se te lo porto. No, io l'ho già fatto fare al libricino. L'ho già fatto fare al libricino, forse c'ho anche qualche altra cosa che ho dato a te, che però non ti ho dato il manuale, adesso controllo, vai. Ok, giovanotti, io però vi lascio, sono 9:15, non ne ho più voglia di stare in radio, se tutto il giorno sono qui in radio non cadrento. Ho cenato, sono entrato a spegnere, invece ho sentito voi, mi sono trattenuto. Vi saluto, ciao Franco, Roberto, chiunque fosse in ascolto, ci sentiamo domani, ok? E mi riposo un po', vado a vedere la TV e poi domani voi qualche sera presto la chiesa di andare a produrre, se no domani mattina se c'ho tempo te lo passo, roba, dai, ok, ciao a tutti. Claudio, aspetta che c'ho ancora il manuale del primo 680 che avevo comprato e in più tutto lo schema elettrico. Perché bisogna conservare le cose. Io quando ho dato le radio, sia 80, 140, le radio che vendo le do sempre complete di tutto. No, Claudio. Sì. Ma magari c'è anche le istruzioni del 700, TS 700 tu, o del 701? Non lo so, devo guardare. Se non te li ho dati ce li ho per forza. No, le istruzioni non me ne hai dato. Coso, Giovanni, l'animatore, mi ha dato le istruzioni del trio originale, belle in italiano. Però guarda se trovi quello del Sommercam del 101, che quello è un po' più cartuccio, e poi le dice R7000 in italiano. Poi mi faccio le fotocopie e te le restituisco. Adesso guardo se ce li ho del 101. Se non ce li ho te la giurati, controlla tu. Quelle che non ti ho dato sicuramente sono qua, ok? Dai, vi saluto e chiudo, ciao a tutti. Ciao Claudio, dai, ci sentiamo, passa domani e ne parliamo. Ciao ciao, buonanotte, buon tutto, qualunque cosa devi fare. Ok, vai Fra. Dai K, ciao Claudio, dai, buonanotte, buon tutto, chiudo anche io perché devo scendere giù. È già ora. Ci sentiamo, ciao Roberto, alle prossimine. Ciao Franco, ben sentito, come al solito, dai, sempre un piacere, dai. Alle prossime, buona carica, tutto quello che devi fare, dai, buon tutto. A domani se coincide, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Attenzione 10, c'è qualcuno? Questo canale